Allora, prima di tutto, ovviamente i motivi della partenza. Perché sei partito e che cosa c'è pensare di trovare qui? Quindi pure con la differenza tra Lampedusa e Manduria e successiva Manduria. Ma motivo, iniziamo, il motivo quando ho deciso di andare via era marzo, quindi 3 mesi dopo il vero casino, in quel momento, quando gli scontri tra il popolo, tra i giovani anche di più, con dei poliziotti e tutto. E quello che è stato richiesto dall'inizio, il cambiamento su tutto, noi lo sappiamo, no? È che non si cambia veloce tutto, ma il minimo non è stato fatto e anche la reazione del governo o anche quelli, l'ex governo, alcune persone che comandavano da dietro facevano un casino. Quindi noi abbiamo chiesto soltanto una reazione tranquilla di dialoghi, soltanto per parlare e organizzare e pianificare qualcosa per il futuro. Non è che abbiamo chiesto i soldi in quel momento o qualcosa del genere, no. Ma invece la reazione è stata un po' dura, un po' violenta, con la violenza, hanno ammazzato tanti giovani, non soltanto giovani maschi che sono stati. Si sono trovate in strada per dire no a quello o no, C'è stata ma anche una donne, repressione. anche bambini, quindi anche proprio dentro casa loro alcuni si sono stati ammazzati, quindi la sicurezza è sparita in quel periodo e il fatto che noi giovani, io per esempio parlo della mia esperienza, con i miei amici che esco da casa la mattina, fino a sera, dipende di quello che c'è da fare, se ci sono scontri con i poliziotti o no. Quindi esco la mattina, torno la sera, lo stesso ritmo per, posso dirti, 2 mesi, per non dire, perché all'inizio era un po' diverso, non c'era questo ritmo, ma dopo la fuga di quell'ex presidente, tutto, è stato lo stesso ritmo ogni giorno. Esci da casa per andare a gridare, non lo so, a buttare le pietre contro questi poliziotti, loro che cercano di spararti, di ammazzarti di qua di là. Quindi si è creata quest'area di stress, posso dire, di pressione, qualcosa del genere, che mi ha fatto capire alla fine, va, me ne vado. E anche perché c'ero un amico, che lui è un poliziotto, a febbraio. Lui è tornato a casa perché cambiano, tu sei da quella città, no, devi andare a un'altra città per lavorare, per non avere Collegamenti. collegamenti con la gente lì. E gli danno ogni tanto così una pausa di 2 o 3 giorni perché è un stress anche per loro, avere degli ordini di qua, di fare, c'è il popolo davanti a te, che tu sei uno di questo popolo. E quindi non gli hanno dati questa opportunità. E ho approfittato, quando lui è tornato per 3 giorni, mi ricordo, a febbraio, sono andato a casa sua, lui che non voleva uscire proprio di casa sua, sono andato a chiederlo alcune cose, ma perché, chi sta Questo comandando della tua stessa adesso? età, il tuo amico? È lui più piccolo di me proprio, lui dell'87. Quindi abbiamo parlato, lui non mi ha fatto capire nulla e cercava di darmi alcuni risvolti di qua e di là e niente altro. E alla fine Ma mi secondo te ricordo, lui sapeva sì, sicuramente cosa al andava minimo dentro? sapeva qualcosina, sì. E Però ha evitato di anche perché dirti. la sua risposta alla fine, quando ho iniziato di ricordarmi di tutto, pensare, perché alla fine lui mi diceva, quando sono iniziati già questi viaggi, questi sbarchi qui in Italia, a Lampedusa, lui in quel momento mi diceva sarebbe meglio che te ne vai come gli altri. Quindi lui sa che cosa succederà domani, qualcosa, qualcosina la sa già lui. E quindi quando ho deciso di andare via era, posso dire, il 25 marzo, qualcosa del genere, come io te l'ho detto, lo stesso ritmo, sono tornato a casa, non avevo voglia di mangiare, proprio mi sono chiuso nella mia stanza e stavo pensando, io mi ricordavo di alcune scene che ho visto, alcune persone che sono stati feriti o colpiti, tutto questo casino, e mi ricordavo della sua parola anche, deve andare via, quindi così da solo ho detto me ne vado. È deciso così. Quindi Sì, è stato è stato il così. clima degli scontri Sì, posso dire sì, perché io non non riuscire a penso. vedere una prospettiva positiva davanti. Sì, può darsi, sì, un stress di quello che è successo e anche, non lo Insomma, quello so. che ti infastidiva era che ti sentivi bloccato. Sì. Perdonami, ti sto interpretando. No, sì, è questo, sì. Se ho capito bene, ti bloccava il fatto che non ti ascoltavano, non ascoltava nessuno, non c'era Sì, nessuno non che... c'era nessuno pronto a discutere con te, a parlare o non lo so, a fare delle cose, no. È soltanto una guerra, ecco, Picchiare, posso sì, dirti, una guerra non civile. era una rivoluzione, perché ci sono quelli tunisini che sono poliziotti e ci sono gli altri che non sono poliziotti, ci sono gli scontri ogni Una giorno, lo guerra so. civile. Posso dire una guerra civile, sì. E quindi mi ha dato questo stress. Penso quello è il motivo, perché io non avevo motivo, per esempio, di andare, non lo so, per fare cosa, per lavorare, perché in quel momento anche lavoravo come insegnante in una scuola privata, insegnante di informatica, quindi facevo altro, anche, continuavo a fare quel lavoro che ti ho detto prima, come autista, e anche ogni tanto lavoro per alcune serate, alcune feste, come fotografo. Sì, quindi non avevo bisogno, non cercavo i soldi anche, posso dirti, per andare a lavorare fuori. Lavoro ce l'avevo, quello che mi serve, un po' di soldi, sì, ce l'avevo, mi trovavo bene con la famiglia, con gli amici. Solo quella situazione che, non lo so, del casino, la rivoluzione, come la chiamano gli altri, io ho detto, se fosse quella una rivoluzione. Non è finita la rivoluzione, c'è bisogno di un'altra fase, o quella è finita, allora ci serve un'altra rivoluzione. Questo che posso dire di Perché questo gli effetti non casino? si vedevano, no? E se No. erano quelli gli effetti non erano proprio positivi. No, proprio. Gli effetti negativi forse sono di più. Adesso più o meno sta cambiando qualcosa, ma non lo sappiamo, non possiamo dire se sì, è stata utile o no. C'è tanto da fare lì. E E quindi questo. cosa pensavi di trovare qui in Italia? Sinceramente quando io sono andato via, come te l'ho detto adesso, non è che sono andato a cercare un lavoro, no, sono andato a cercare, non lo so, un posto tranquillo, non lo so, sì, posso, non ho pensato proprio di avere, non lo so, una grande amicizia con gli altri da quella parte d'Italia che io. Sono stato, quando ho fatto il viaggio in Grecia, sono passato di qua per 2 giorni soltanto, non è che conosco l'Italia, Dove quindi eri passato? è a Roma, così un piccolo giro, ma soltanto per passare, per tornare in Tunisia o anche dall'andata sì, da questa Volevi cosa. insomma solo un po' di tranquillità Sì, da quando sono quella andato ho detto situazione. me ne vado a tranquillizzarmi. Non mi piaceva più quel casino, anche che io facevo parte di quel casino, che io ero lì in strada per combattere con gli altri. Ma tu avevi internet lì? Sì, ma quello che facevo io tutto il periodo, quando finisco il casino in strada, Tornavi a casa e scrivevi. tornavo a casa la sera, mi metto in contatto con gli amici e far girare alcune informazioni, Tipo che usavi? Internet, usavo Facebook, anche la mail privata con alcuni che conosco benissimo, non con tutti quanti. E questo sì, Facebook era utile in quel periodo Twitter lo che usavi? sì, ce l'ho, ma non Non era quello principale. tanti tunisini che si collegano facilmente su Twitter, così. E quindi. Usavo Facebook perché era l'apprezzo, l'arma, posso dirla un'arma, era un'arma per far girare tutto con tutti i tunisini, perché L'accesso a tantissimi tunisini. internet com'era lì? In quel periodo sì, mi ricordo anche in un periodo, è stato un periodo, hanno bloccato Facebook, l'Indonesia, Come hanno. facevi ad entrare? Ma io uso alcuni proxy, Non so cosa sono i alcuni proxy, bravo. quindi Però i tuoi amici no, ovviamente. O glieli avevi insegnati tu? tanti, ma io cercavo in quel momento anche di far girare la voce che si può usare quello. Si può Tramite usare un altro mail, no? modo, anche quando bloccavano proprio il sito di alcuni proxy. Che proxy usare? Soltanto posso dire di più quello hotspot, anche se è stato bloccato in un certo modo, anche tantissimi che posso dire che sono abbastanza esperti sull'informatica Non riuscivano non più a riuscivano a scaricare l'aggiornamento, è stato bloccato tutto proprio. Tor, l'hai mai sentito? No, usavo altri proxy e anche non mi ricordo il nome, che c'era una figura proprio come una volpe, qualcosa come il Fennec, non mi ricordo il nome. Foxy Proxy, quello di Firefox. Forse sì, Foxy, sì, qualcosa del C'era genere. quello della volpe, girava quando ti collegavi col proxy. E allora era Sì. quello, sì. Lo uso anch'io ogni tanto. Tor, quindi non l'hai mai utilizzato. Torno. Onion. Onion, no. No. Mi serviva soltanto Hotspot, che io sono riuscito a aggiornarmi proprio in qualsiasi momento, Credo, perché sarà utile. non spengo il computer, lo lascio acceso Tipo tutto il server, ce giorno l'avevo. e ho fatto tipo, non lo so, come tipo richiesta di aggiornamento in qualsiasi momento che si può collegare su quel sito. Quindi avevo Insomma, ti che. interessavi anche di questo e gestivi quindi pure un po' di comunicazione Sì, con gli tra voi amici, con ragazzi. la gente, anche quelli che non conosco, solo per condividere. Ecco, sono stati feriti da noi quella cosa per far girare Sì, questa. altrimenti rimaneva tutto bloccato, tutto chiuso, Sì, perché sul TV, soprattutto i primi giorni, mi ricordo che dicevano non è vero. Non è. Quindi cercavano di nascondere tutto e noi abbiamo cercato di dare le informazioni a tutti quanti. Quello perché in quel periodo. Come mi hai chiesto tu prima per quella città, Gaza, per esempio, io ti ho risposto, non abbiamo saputo nulla in quel periodo, perché li hanno isolati in quel momento. Dopo, quando si è tranquillizzata la situazione, lì sono usciti alcuni video, alcune foto, alcune testimonianze di qua e di là. Quindi, stavano facendo la stessa cosa quando anche succedeva di nuovo questo casino, abbiamo cercato di non farlo accadere di nuovo. farlo cadere di nuovo e isolare tutta la Tunisia, non si può fare, quindi abbiamo cercato di far girare le notizie il massimo che potevamo farlo. Senti, ma il prezzo com'era più o meno di internet? Il prezzo, per dirti, per esempio, per la velocità, per tutto, non lo so, c'era il minimo, perché Tipo, qual tu, era? non lo so, 56K o ADSL? No, posso dirti ADSL sì, da tutti che avevano idea, ADSL sì sono quelli che avete, di alcune compagnie telefoniche tutto, ma la gente usavano forse di più ADSL e che può darsi, la maggior parte usavano il minimo di velocità, perché non ce la fanno pagare tanti soldi, perché costa un Più o po' meno di. quant'era il minimo? È il minimo un mega. Ah, di Di traffico. traffico, sì. No, non traffico, il volume che puoi usare. Un megabit di trasmissione. Sì, di Quindi trasmissione state meglio di noi. gratuito. No. Sì, noi qualche anno fa ci siamo aggiornati. Considera il mio paese, Che Avetrana. mi sa da voi Sì, 8 mega. considera che da noi, ad Avetrana, la DSL è arrivata qualche anno fa. Prima c'eravamo solo 56K. Ah. Tu te lo ricordi 56K? Da noi io quando ho iniziato a usare non l'ho usato, ho 56K iniziato con era, 200 qualcosa sì, io. appunto, noi 56, quindi immagina come stavamo. Sì, è questo, quindi la maggior parte avevano questo minimo e per quello siamo riusciti a Vabbè, girare anche il tutto. minimo però era utile, Sì, era utile, sì. che poi col proxy comunque la velocità va lentissima, quindi Valentissima, sì, ma avere una banda larga non ti serve. serve di vedere le cose, di leggere, di condividere anche se hai qualcosa. E col proxy si facevano collegare a Facebook, c'è il blocco del proxy se non sbaglio, non tutti forse. No, si Si poteva. facevano collegare tranquillamente. Sì. Questa è una cosa che... Sì, perché ti faccio ricordare, può darsi in questi anni, perché era il 2010-2011, in quel periodo, Facebook come sta facendo la sicurezza adesso, non come prima. Dici, c'era Prima un po' di ti sicurezza in dà il meno. segnale che qualcuno può darsi essere collegato da un'altra parte con proxy, non lo so che cosa, Però tu sapevi che eri tu. ti fa usarlo lo stesso. Se tu fai entrare la mail, il password, Ah. puoi entrare. Ma adesso sì, ti blocca, ti avvisa, ti manda una mail sul tuo mail dicendo che qualcun altro, anche se tu sei la stessa persona. E quindi poi hai preso la barca da dove? Hai deciso di Da prendere la questa barca da dove? città dove ho finito i visti, vuol dire dove Che mi si sono scrive? laureato. Scusa. Sfax, Sfax. E quindi sì, quando ho deciso di andare via, il giorno dopo mi sono alzato la mattina, sono andato a cercare questi responsabili di questi viaggi. Quindi sì, la mattina mi sono alzato, perché io non li conosco. Erano tre nella mia città che collaboravano tra di loro e non ho un contatto con loro, conosco due di faccia, anche uno che ce l'ha un caffè, ogni tanto vado nel suo caffè, ma non ce l'ho un contatto personale con questa persona. E quindi sono andato a cercare alcuni dei miei amici per raggiungere queste persone, per poter parlare, per essere sicuro che trovo un posto, che mi vado, perché tanti prenotano il posto, pagano e ti rimandano, se c'è qualche priorità per una conoscenza, qualcuno che conosco, un amico, no? Quindi Come un lo fanno favore. passare, sì, un favore per loro, ti rimandano. Quindi volevo io subito, perché in quel momento, come te l'ho detto, era un stress, niente altro, quindi mi sono fissato su questa cosa, me ne vado e basta. Anche quando ho avvisato la famiglia era il giorno prima la partenza, proprio. Il 24, il 25 ha detto si No, il partiva. 25 ho avuto questa idea di Ah, partire. quindi. Il 26 sono andato a cercare il posto e più o meno sono riuscito ad avere un appuntamento il 27 per pagare i soldi per discutere quando posso partire. Il 27 ho pagato i soldi, ho avvisato la mia famiglia. No, scusa, il 26 ho avvisato la mia famiglia, voglio partire perché in quel momento i miei soldi non avevo nulla con me, ho lasciato tutto a casa con mio padre e tutto. E ho chiesto i soldi, mi servono quella cifra che ho pagato 1.000 euro alla fine per andare via. Quanto? 1.000 euro. Mille. Euro da voi. Sì. Che più o meno corrispondevano a quanto? 2.000 dinari. Quindi sì, domani e il giorno dopo sono andato da questa persona, non a casa sua, ma ci siamo incontrati in strada. Erano altri due amici con me che abbiamo pagato nello stesso momento. Ci ha detto domani partiamo. Vi avviso col telefono, Ah. quindi per l'orario, come, tutto. Era l'ultimo giorno, posso dire, in Tunisia e quindi ho approfittato di rilassarmi, stare a casa, tranquillo. Questi due amici hanno dormito con me quella sera. La mattina ci siamo svegliati presto, così abbiamo sentito questa persona, siamo E andati la da un casa posto Sfax così. come ce l'avevi? Pagavi un affitto, No, pagavi. no, no, no, siamo ancora in Kerouan, Ah, quindi a nella mia Kerouan città, stavi. sì. Siamo andati vicino a casa sua, questo, ci ha mandato qualcun altro che ci ha portato un'altra casa per non far vedere questo traffico agli altri, perché non si sa mai. E quindi sì, siamo andati con questa persona in una casa e abbiamo trovato altre persone anche lì e dopo con un furgone siamo saliti e siamo andati così. Faceva il giro in città, prendeva altri in giro anche, e con un con un modo, come, non lo so, come posso dirti. Questi modi illegali di andare in alcuni posti dove non c'è controllo, la periferia della città ha tutto per discutere con gli altri, sono arrivate altre macchine, altri furgoni pieni di altre persone, anche soprattutto sono giovani, e alla fine hanno deciso l'orario, hanno chiamato altre persone anche dove siamo andati dopo in questa città, quindi questo un viaggio non è come gli altri ovviamente, e quindi dopo alcuni passi che decidere chi parte e chi deve partire dopo in un casino, e alla fine sono riusciti questi 3 persone di organizzare chi parte il primo viaggio, chi l'altro, quindi io sono stato fortunato perché ho parlato con questa persona e il capo di questi 3, uno di loro è lui che comanda tra questi 3, e quindi lui mi ha detto tranquillamente sì, fai tu, e sono andato, ero fortunato su questa cosa, non come gli altri che devono aspettare non si sa quando. E quindi siamo andati verso Sfax, questa città, lì un piccolo paese che fa parte della provincia di Sfax. Siamo rimasti lì per aspettare gli altri che vengono per la barca, che dobbiamo partire la sera perché non si può partire pomeriggio, siamo arrivati lì più o meno, non lo so, pomeriggio, non so a che ora, forse mezzogiorno anche. E Cioè da il quello telefono a sì, te, avevo mandavi ogni tanto il messaggino a no, casa, proprio no, hai no. evitato. No, evitavo di parlare con la casa, evitavo di parlare anche con gli amici, ero tranquillo più o meno. Vabbè, triste immagino. Sì, avevo alcuni pensieri, ma alla fine sì, Cioè, tipo, li se controllavo. vuoi, lo dici dopo, non ti preoccupare, dai, facciamo dopo, questo lo dici dopo, se vuoi. Sì. E quindi abbiamo aspettato in quel posto lì, era un deposito, Nella periferia di Sparsi, nella giusto? periferia, in campagna, e quindi abbiamo aspettato lì più o meno una quarantina, 48, qualcosa del genere. E dopo lì 6, perché sono arrivati prima, ci hanno detto lì 6 partiamo, ma arriva perché devono organizzarci per qualsiasi cosa all'improvviso dopo. Ci hanno detto che arriva un camion, che dovete salire dietro tutti quanti, dovete essere piani proprio, era difficile, 50, più o meno 50 persone che devono essere in quel spazio così difficile. Quindi abbiamo cercato di non fare casino e farlo andare bene, perché noi abbiamo la voglia di andare, non loro. Quindi ci serve a mantenere la calma. All'I6 sì, sono arrivati, è arrivato questo camion. Siamo saliti, questo camion ha fatto più o meno, non lo so, posso dire 2 km verso il mare, perché questo paese è vicino al mare. Siamo arrivati lì in un porto piccolo di pescheria, qualcosa del genere. E quindi abbiamo preso la barca e siamo partiti. Più o meno le Sei 6. proprio un attimo. Allora, eravamo arrivati al viaggio in barca. Sì. 20 Quante ore più o meno sono state? ore più o meno, sì. Com'è stato il viaggio? Comodissimo. È abbastanza. Come posso descrivere questo viaggio? Sì, è un viaggio proprio. Non è normale, ovviamente, non è comodo. È un viaggio di paura proprio. Non lo so. Un viaggio nel colore blu, possiamo chiamarlo così, perché il cielo è blu, il mare è blu, così quello è l'unico colore che abbiamo visto durante il viaggio. Qual era la vostra condizione? L'insicurezza, tutto quello. La vostra condizione com'era Sì, nella barca? prima ti dicevo, più o meno dall'I6 siamo partiti, e siamo arrivati sulla barca. Eravamo 48, anche con quello che fa la guida, e abbiamo trovato un ragazzo nascosto giù, vicino al motore. Quindi siamo diventati 50 su una barca di 7 metri, piccolissima, quindi non ci bastava neanche. Non abbiamo pensato a questa cosa in quel momento, perché l'unica cosa che c'era nella nostra testa è il fatto di andare avanti e niente altro. Quindi non abbiamo pensato alle situazioni, come andrà il viaggio, no, niente. E quindi siamo partiti. E gli altri 50 erano formati uomini, donne, più o meno l'età. Posso dire che eravamo 50 tutti quanti, la maggior parte erano giovani, c'erano 5, penso, minori, tutti maschi. Alcuni, la guida sì, non voglio dire anziano, ma meno giovane delle altre. Gli altri erano forse da 40 qualcosa in meno, verso, non lo so, uno che mi sa 14-15 anni. Parlavate fra di voi o... Quelli che erano amici, vicini più degli altri, sì, si parlava, sì, sicuramente. Io avevo un mio amico, per esempio, accanto a me, con chi parlavo, anche perché durante questi giorni, ultimi giorni, la preparazione per questo viaggio, tutto, il fatto di non mangiare troppo, posso dire quasi niente, e senza avere qualcosa da mangiare sulla barca, tutto, con questi ondi che giocavano con la barca, quindi mi sentivo male, quindi avevo fatica proprio. Ho pensato io ad un certo punto, ho mandato i saluti con il mio amico, quando si arrivavamo, pensavo proprio che non riesco ad arrivare di nuovo a toccare la terra. E quindi sì, è andata così. Beh, tu hai preso l'aereo, no? Per andare in Grecia, sei andato... Prima sì. hai preso l'aereo. La percezione tua sulla differenza del viaggio, qual è stata? Posso dire, Se dovessi quando fare un sono andato in paragone. Grecia con l'aereo, come fossi non l'ho viaggiato. Era un divertimento, non l'hai No, sentito? nel senso che toccavo la terra, alla fine sono seduto nell'aereo, mi Eri piedi toccavano stabile. qualcosa stabile. Quello ti ha Sì. dato molto più fastidio, 20 ore di navigazione, insomma, dietro La di te. navigazione, dove stai andando non si sa. Non hai il senso dell'orientamento, giustamente. Sì, l'orientamento non si sapeva. Quindi con questi ondi che giocavano, che potevano, non lo so, buttarti fuori la barca, tutto, tutti siamo bagnati, quindi non è un viaggio, posso dire, non lo so. Quindi tu sei partito alle 6 e sei arrivato Più o meno alle alle 2, così a Lampedusa. Sì, 2 del era giorno perché dopo. mi ricordo, sì, il giorno dopo, perché mi ricordo era l'orario di pranzo a Lampedusa lì. E come siete arrivati lì? Appena E avete visto per la fortuna, terra? no, più o meno, non lo so quante ore prima, ma posso dire forse 5 ore la mattina presto, posso dire lì 6 più o meno, ecco, la mattina. E ci siamo beccati con altre navi grandi di pescatori, tutto. E non sapevamo dove stiamo andando, abbiamo chiesto, quindi da lontano non potevamo avvicinarci troppo, altrimenti rischiamo di finire il nostro viaggio quel momento. E quindi abbiamo Rispondevano i pescatori? chiesto, sì, questi pescatori che erano tunisini proprio, perché abbiamo visto sulla nave una parola scritta in arabo, quindi abbiamo capito che erano tunisini. E ci hanno risposto che era difficile anche sentirsi. Loro hanno capito subito che era una barca che sta andando verso Lampedusa e stiamo chiedendo l'orientazione, niente altro. Quindi ci hanno risposto il grado per la bussola, che era 60. Dobbiamo metterci su quel grado e così possiamo arrivare verso Lampedusa. E abbiamo sentito soltanto quella parola, Settin, in arabo, e quindi abbiamo fissato la bussola su quel grano e siamo andati avanti, fino a quando abbiamo visto una piccola nave, non era chiaro in quel momento, abbiamo pensato che erano la Guardia Costiera italiana. In quel momento abbiamo detto sì, forse siamo vicini, quindi forse ce la faremo di arrivare. E quindi in quel momento sì, abbiamo cercato di avvisarli, non lo so, con i segnali da lontano tutto, e si sono allontanati un po' all'inizio, non sono arrivati incontro per vedere che cosa. Si sono allontanati e abbiamo detto può darsi che non sono la Guardia Costiera, quindi ci siamo spaventati un po' con il momento, forse non siamo sulla strada giusta, ma dopo hanno fatto il giro subito, sono tornati da dietro e sono arrivati vicini così. E così ci hanno chiesto di seguirli per arrivare in Lampedusa, niente altro. Anche se posso dire proprio, ecco, per quello prima ti dicevo, io non avevo fiducia in questi italiani, in queste persone. Perché la prima cosa il primo contatto è stato con questo tipo di poliziotti, posso chiamarli io così, che uno di loro ci ha fatto vedere il dito di mezzo, quindi è proprio qualcosa che non lo so, ti fa capire come andrà dopo. Quindi, Però poi vi hanno portati vicino alle coste italiane a sì, a Lampedusa, Lampedusa, fino al porto lì ma dove abbiamo. voi non vedevate ancora la terra. No, in quel momento quando abbiamo visto la Guardia Costiera, no. Dopo Ma era buio. no, no, no, era la mattina. Le 2 di pomeriggio quindi siete arrivati. Sì, Ah, ok, avevo capito male. dalle 6 fino alle 2 del pomeriggio, quindi saranno 20 ore prima. E quando avete visto la terra? Posso dire 3 ore prima. E avevate già incontrato la Guardia Qualcosa del Costiera? genere, come? Avevate già incontrato la Guardia Costiera? E Sì, che ci hanno accompagnato, erano come accanto, che vi siete sentiti sulla barca? Vi siete rallegrati di questa cosa? Vi siete sentiti felici? alcuni che forse dicevano no, ma non dobbiamo avvisarle perché può darsi che ci portano in prigione, qualcosa del genere, ma altri in quella situazione, senza cibo, senza nulla, in quella situazione abbiamo detto no, ormai. Ecco, andiamo con loro e vediamo quello che succede dopo. E tranne prima, un'ora più o meno prima di arrivare, la barca è rotta davanti, un po' spaccata. Li abbiamo avvisati questi della Guardia Costiera che non hanno fatto nessuna reazione per Voi prendevate acqua? scaricare la barca perché rischiavamo proprio di Poi la finire il fine ce nostro l'avete fatta. viaggio. E piano piano, ecco, per fortuna, grazie a Dio, come diciamo noi, siamo arrivati. Va bene, e appena siete arrivati lì a Lampedusa? Ma a Lampedusa, io personalmente, quando ho toccato la terra di nuovo, la prima parola che ho detto, grazie a Dio, basta, ero un po' contento di toccare la terra di nuovo, di alzarmi, di trovarmi in piedi di nuovo, anche se avevo fatica proprio con il freddo, con tutto, perché eravamo bagnati tutti quanti, dopo, non lo so, 20 ore così, un po' stretti, così seduti, uno accanto all'altro, quindi non era facile muoversi di nuovo, quindi. Ma cercavo di, non lo so, ero fermo lì, ci hanno fatto una foto di quelli che sono arrivati e dopo mi sono I documenti ce ritrovato. li avevi allora, sì? Non Documenti? No, nulla proprio. li avevi portati, li avevi buttati? No, documenti li ho lasciati in Tunisia. E gli altri, non avevi niente con te, No, oltre il non avevo telefono? nulla. Il telefono e basta, sì. E più o meno 400 euro che io ho diviso con alcuni amici, due amici. E li tenevi nascosti Sì. ovviamente sulla barca, e anche lì appena sei arrivato a Lampedusa li avevi Sì, li tenuti. tenevo nascosti. Ed erano tuoi? Sì. E perché li hai divisi con i tuoi amici? Ma come io mi servono un po' di soldi per muoversi, per mangiare, anche a loro serve. Da quanto tempo conoscevi questi amici? E chi sono i miei vicini lì, anche se quando studiavo prima, loro non hanno studiato come me, per esempio, quindi non avevo un rapporto così stretto con questi amici. Fino a quando mi sono laureato, sono tornato nella mia città, quindi non avevo questo rapporto come in questi 2 anni, gli ultimi 2 anni prima di partire, ma ho avuto un rapporto più vicino, posso dire, sì. Anche loro stavano con te, venivano con te durante le contestazioni. Posso dirti no, No, loro non venivano. non vogliono parlare, no, di politica, no. Quindi loro sono partiti più che altro per trovare un lavoro qui, non perché si sentivano. Uno sì, posso dire sì, uno sì sicuramente, perché anche la situazione di sua famiglia non è che così piacevole. L'altro posso dire anche perché lavorava lui. Quindi non è che non ha un lavoro, non ha i soldi, ma non lo so, non mi ha spiegato proprio che cosa vuole fare qui. E anche questo che è tornato dopo in Tunisia. Adesso sta in Tunisia lui. L'altro invece sta, mi sa, a Milano. Sì, a Loro Milano. sono arrivati a Manduria con te? Sì, Stavo per cercando fortuna di. ecco, siamo stati, anche dopo la Lampedusa, siamo stati trasferiti insieme. Quindi poi siete sbarcati a Lampedusa e dove vi hanno portato? Lampedusa, siamo rimasti lì nel porto di Lampedusa, non è che c'era un posto così per andare a dormire, no, abbiamo visto, per quello che stavo dicendo, quando siamo arrivati, cercato di capire quello che c'è in giro, vedevo tanti ragazzi in giro per strada così, ma un po', ho detto, non lo so. Che cosa sta succedendo? Non ho mai immaginato Ma questo tu ti eri informato un casino. po' su internet di Lampedusa come. Sinceramente no, non avevo il tempo di seguire questa cosa in quel momento perché mi interessava altro lì in Tunisia. Ma comunque io sapevo qualcosina, sì, Ti che eri informato prima, tanti che sono andati via, tutto. precedentemente ti eri informato. Sì. E c'erano molti tunisini quando sei arrivato lì a Lampedusa? Tantissimi, sì, tantissimi. Hai incontrato qualcuno che conoscevi? Sì, alcuni amici anche che sono partiti prima di me, sì. Della Del tuo paese o mia dell'università? città proprio Sì, anche. della città o dell'università anche? L'università no, no, ma sì, tanti dei miei amici della mia città che conosco, sì. E con qualcuno di questi vieni ancora in contatto? Grazie a internet, forse sì, ma telefonicamente no. La maggior parte dove sta? Qui in Italia o sono tornati? La maggior parte, se posso dirti la verità, sì, sono tornati. Sono tornati lì in Tunisia. Sì. Alcuni sono andati in Francia, alcuni sono rimasti qui, alcuni in Germania. Sì. Senti, poi li hanno portati a Manduria. Tu sei arrivato lì il 28-29, 29, suppongo. No, io sono arrivato lì il 1º aprile, Primo proprio, ok. e quindi prima di Manduria siamo stati trasferiti a Lampedusa, lì il giorno dopo in quel centro d'accoglienza, non so come si chiama, CIE, come dicono loro, che era anche abbastanza pieno, quello che ho visto fuori, posso dirti anche dentro era la stessa situazione. Non ce la fai neanche ad arrivare a mangiare qualcosa o un posto per dormire. Io in quei giorni Letti, proprio bagni. non ho dormito. No, letti proprio, ma forse una centinaia di letti c'erano, Bagni. ma bagni proprio. Io posso dirti anche perché non ho avuto da mangiare quello che mi serve, non mi serviva il bagno proprio, quindi è soltanto. Scusa per la parola, per pisciare, sì, Spero per, di no, sì, sì. ma No, non ti preoccupare. Vabbè, non sentivi il bisogno di lavarti, di una doccia, di un bagno. lavarmi posso dirti no, Non si poteva fare. E come perché? Perché faceva freddo, l'acqua era fredda, quindi non paura di ammalarsi dopo con nulla del genere, quindi anche i vestiti che erano sporchi e tutto, non mi andava forse neanche, non ce la fa, devi forse aspettare qualche ora lì per arrivare al tuo turno per Con l'acqua fare la congelata, doccia quindi. con l'acqua congelata, che sì, questo. Mentre invece sulla barca che vi ha portato da Lampedusa a Manduria, come vi hanno trattato? Come ti sei sentito trattato? Ma Anzi, a cosa vi hanno detto prima di tutto, dove stavate andando, vi hanno detto no, cosa stavano nulla, facendo? nulla, Vi hanno preso senza nulla, dare le perché quando siamo spiegazioni? arrivati in quel centro di Lampedusa ci hanno dato un numero a ciascuno e quello devi tenerlo, e dopo Quando hanno vi hanno fatto la iniziato, foto. sì, quando ci hanno fatto la foto, dopo hanno iniziato di chiamarci con quel numero, quindi devi Tu te lo andare sul ricordi il numero? pullman, il pullman che ti porta, non Te lo lo ricordi so. quel numero? Sì, 69. Sì. Quindi sì. Sì, ci chiedono di salire sul pullman e niente altro, non sapevamo. Ci hanno detto, per esempio, state andando da quella parte, pure prendere la nave e andare, non so, anche quello che girava la voce lì, dicevano che può darsi ci stanno portando in Tunisia. La decisione di quei ragazzi, tutti quanti, era se ci portano in Tunisia, arriviamo lì al porto, sarà il casino sulla nave, di rovinare tutto proprio, perché non è giusto, secondo noi, non lo so, io qui ho avuto questa scelta, una libertà di trovarmi dove voglio, alla fine, non lo so. Mi porti così contro la mia voglia da un'altra parte. E quella parte dove ero io l'ho lasciata proprio per tantissimi motivi, può darsi, perché sono diversi motivi. Alcuni sono partiti per il lavoro, alcuni sono andati per paura, anche famiglie, proprio donne, tutti, non soltanto maschi giovani che cercavano lavoro. Quindi, non era giusto, secondo noi, per quello abbiamo detto se ci portano a Quindi sull'isola casa. voi parlavate di più rispetto a quello che vi dicevate durante il viaggio. Durante il viaggio mi hai detto che parlavi solo col tuo amico, invece sull'isola avete stretto più i rapporti tra Sì, ma di voi. per forza, perché non lo so, devi ascoltare, perché per esempio io che non parlavo l'italiano, quindi mi servono quelle informazioni, devo parlare con l'altro che capisci forse l'italiano. Perché alcuni parlavano italiano. E nel centro di Lampedusa? C'era qualcuno che parlava arabo o francese? Centro di Lampedusa, c'erano alcuni mediatori, sì. Ed erano disponibili? Erano disponibili, può darsi, per i poliziotti, per alcuni parti, non soltanto per i ragazzi. Ma mi ricordo che c'era uno, due, quelli che io ho visto, ma due mediatori per non lo so quanti migliaia di Ma quando li ragazzi. usavano, quando dovevano distribuire il cibo, quando... No, per cibo era un casino, con i poliziotti che ti fanno passare, uno, ci sono 10 file più o meno, la prima riga che li fanno C'era passare. qualcuno che se ne approfittava di questa distribuzione del cibo? Qualcuno di voi che voleva più cibo? No, secondo me è mai capitata questa cosa, perché lo sapevamo che non basta per quelli che stanno dietro, se tu riesci ad arrivare lì a prendere qualcosa, devi ringraziare Dio, non devi chiedere altro. Quindi tu non hai visto niente di questo, né a Lampedusa né a Manduria? Il fatto di chiedere di più su questa cosa, sì, forse a Manduria di più, perché eravamo di meno, non come Lampedusa. Ho notato che alcuni forse chiedevano per la quantità, ecco, mi dai questo piatto proprio che non mi basta primo, e anche quello che c'è dentro non è buono, faceva schifo. Tipo che sapore aveva? Ma non c'era sapore, posso dirti. Quindi soltanto riso così con un po' di sugo, che non lo so, con l'acqua proprio, ecco, non era un sugo, sì. O la pasta, la stessa cosa. E noi dicevamo, non lo so, ma voi, quelli che lavoravano lì, voi mangiate questo a casa? Questa era una domanda che è stata fatta, per esempio. E niente, è così. Quindi poi siete arrivati a Taranto, vi hanno messo sui pullman, Sì, siamo arrivati a vi hanno fatto Taranto. passare per il cordone degli agenti, no? Tu mi hai chiesto sulla nave come ci hanno trattato, ecco, Sì. torno su questa cosa perché quando siamo arrivati al porto di Lampedusa per prendere la nave, prima di mettere i piedi sulla nave, ci chiedevano di togliere le cinte, le cinture, e come si chiama quel filo Lacci. del lacci delle scarpe. Non sapevamo perché, non c'era motivo, secondo Tu hai me, capito ecco, secondo te qual è il motivo? può darsi, non lo so, per ordini di sicurezza, come non lo so, come fanno in prigioni. Allora, quello è l'unico motivo per me, Cioè, perché sicurezza? perché in prigioni sì, non ti fanno avere queste cose, la maggior parte di queste prigioni, per non, come si dice, Impiccarti, sì. E impiccarti o qualcosa del genere, sì. c'era rischio secondo te che qualcosa del genere succedesse? No, E non c'era se... rischio, l'unico rischio, come te l'ho detto, se ci portano in Tunisia rischiamo di rovinare la nave, distruggerla, niente altro. Quella era l'unica paura che Sì, sentivate. usare la violenza con quelli che stanno dentro, no. Perché non vi avevano spiegato minimamente dove vi stavano Sì, la portando. comunicazione mancava, sì. Quindi, e dove vi tenevano? C'era una stiva grande, stavate in piedi, seduti per No, terra? no, no, ci hanno dato le stanze, proprio delle stanze con i posti Erano pulite? letti, erano puliti, sì. Vi hanno dato da mangiare, da Da bere, sì? mangiare sì, qualcosa anche, c'è il dubbio, ecco, sono i miei pensieri, anche i pensieri di tutti quanti, penso, che c'era qualcosa nel cibo, tipo medicine, qualcosa, anche quello l'abbiamo Perché? detto a Lampedusa, Che sentivi? perché ci sentivamo proprio deboli, qualcosa, un tipo di medicina, non sono esperto di medicina, non posso parlare di questa cosa, ma ecco, ti dico, mi sentivo strano quel momento, quelli giorni, le uniche volte che ho mangiato, sì. E lì ti sei sentito male facendo il paragone col viaggio che hai fatto con la barca? Ti sei sentito male sulla nave? Sulla nave ho approfittato di dormire soltanto, Anche perché ti veniva facile, visto che ti sentivi perché c'è il debole. letto e anche ero debole e anche perché tra il viaggio e la notte prima della partenza sono dormito e ero stanco di quel casino anche che abbiamo Lì in fatto in Tunisia Tunisia vi avevi e lasciato. quindi mi mancava il sonno. Quindi finalmente ti sei addormentato e sei arrivato a Taranto. Sì, sono arrivato a Taranto, mi sono trovato in mezzo a un porto militare, ho visto Molti agenti, quelli, no? sì, tantissimi pullman, una fila anche. Per uscire dalla nave proprio, non volevo uscire tra i primi, sono rimasto con alcuni dietro proprio, per vedere quello che succede fuori, se c'è una reazione di ragazzi, se c'è qualcosa di. Perché non Quindi, sapevi, avevi paura di quello che sarebbe successo sì, bastava un fuori. momento di trovarti, non lo so, fuori da una parte che non lo so, non si sa. Ecco. Quando ho visto che andava bene per tutti quanti, sono È andato usciti, anche loro. quindi io posso uscire in quel momento. Vi hanno fatto salire sui pullman direttamente lì? O vi Sì, hanno tenuti un po' no, sui pullman, all'interno? sui pullman tutti sono partiti questi pullman. Vabbè, vi L'abbiamo chiesto hanno. l'autista dove lui diceva, mi ricordo, Oria diceva, Ah, rispondeva l'autista, era l'unico che vi l'autista, dava sì, spiegazioni. noi abbiamo cercato in francese, che lui forse capiva il francese, quindi. Le forze dell'ordine invece non dicevano niente, No, polizia, carabinieri, polizia, non vi nulla proprio. rispondevano Anche proprio. quando c'erano alcuni giornalisti lì, loro ci chiedevano di non risponderli e di andare avanti soltanto. E come ve lo dicevano? Con la mano, così, con il Ah, dito col sulla gesto. bocca, con, non lo Col so, gesto. E tu con volevi il invece gesto. dirlo a qualcuno che stava lì davanti, quello che stava succedendo? Sì, può darsi sì, un giornalista sì, mi piacerebbe parlare con lui in quel momento, ma Avevi bisogno il di sfogarti, francese, insomma. o anche se mi ricordo benissimo, una che così, è passata accanto a me, una signora, che parlava l'italiano, io le ho detto... Posso parlare con te francese e inglese, se vuoi. Lei mi diceva italiano, ho detto mi dispiace, non posso. E un poliziotto che non è che mi ha Sincero, spinto, ma così, con la mano, ho è detto trattenuto. sì. Ma anche se lui ha cercato di bloccarmi, se lei mi ha risposto in francese, io potevo parlare lo stesso con lei. Quindi vi hanno portato sui pullman, non vi hanno maltrattati quindi quando siete arrivati a Taranto, le forze dell'ordine? No, Vi hanno solamente direttamente indirizzati ai pullman, insomma. sì, sono i pullman, sono partiti i pullman anche dopo sulla strada, ecco, abbiamo visto che c'è una città, tutto, siamo passati sopra la Punta Penne, se mi ricordo benissimo, Che adesso lo conosci bene, no? sì, conosco Ovviamente. perché sì, ho lavorato un po' lì a Taranto, e quindi abbiamo visto che c'è una città, tutto, può Come darsi ti che sembra c'è... adesso Ponte Punta Venne? Quando lo vedi, ti dà un'impressione strana di quando ti ricordi la prima volta che l'hai Adesso visto? proprio no, ma la prima volta che sono passato lì, non lo so, era strano di vedere quel posto. Anche adesso mi ricordo proprio quando mi chiedevo in quel momento, ma dove sto andando? Oh, non è questa la domanda, dove mi Mi stavo stanno portando, portando? Ecco la domanda non giusta. avevi la minima idea di dove andare. No. Avevi, insomma, Perché siamo passati dalla città, quindi, come hai e detto che si siamo chiamava quel senso di smarrimento, di in... perdita perdita, che... che io dicevo No, prima, no, però in perdita. arabo. Zaya. Poi tutte queste parole in arabo, me le passi via internet, Va bene, così le metto bene. se non ti dispiace. Sì. No, tranquillo, figurati. Quindi quel senso lì rimaneva anche sul pullman quando stavi... Sì. Sentivi Fino alla come fine proprio, sì, sentivi quando perso, mi insomma. sono trovato nel campo di Manduri avevo gli stessi pensieri nella mia testa, questo sentimento di smarrimento, adesso ecco, c'è la parola giusta. sì, è così. Siamo arrivati tranquilli in questo campo di Manduria, che adesso ecco, posso dirti campo di Manduria, ma all'inizio quando siamo arrivati... La strada che hanno fatto non era la strada principale, per esempio Manduria, ovvia, perché mi ricordo benissimo di questa cosa. Hanno fatto una stradina, sono passati di un'azienda, lì che non lo so, posso dire, forse facevano Cemento. cemento, tipo, alcuni prodotti così, non lo so, qualcosa del C'era genere. uno sfiatoio grande, c'era un... Sì, siamo passati dentro proprio, Era siamo blu. usciti di dietro. Era blu. C'era le Um, pareti blu. sì. E quindi abbiamo detto, ma ci stanno portando qui per lavorare. Ecco, il primo pensiero per chi ho avuto detto questa azienda, siamo entrati dentro. Dopo no, usciavamo di nuovo e una stradina così nella campagna, cioè campagna. Quindi in quel momento sì, mi sentivo un po' agitato, ma cercavo di Invece là, controllarmi. quando sei arrivato proprio al centro, là, al campo che hai visto di che si trattava, appena sei sceso proprio dal pullman, cosa è successo? Che cosa ti hanno detto? Come ti stavano trattando? Se c'era qualcuno che parlava arabo, francese almeno, o inglese? Ma forse una ragazzina, sì, una ragazza che parlava un po' il francese, ma parlava in italiano. E quando sono sceso Com'era dal vestita? pullman, era vestita con una, come posso dirti, quella, come quelle che usano, Giallo fluorescente. sì, la zara, quella cosa, sì. E ci chiedeva di entrare e seguirla per avere un posto, una tenda, qualcosa del genere. E i miei amici Questo che sono arrivati prima è... Sì. mi chiamavano da lontano e volevo andare da loro e basta, non volevo seguirla questa italiana, mi fidavo dei miei amici. E quindi sono sceso del pullman, sì, sono entrato in questo campo, anche perché non c'era quel cancello che hanno fatto dopo. quindi puoi entrare tranquillamente. E niente, sono andato con mia Questo era che moglie giorno? il 1º aprile. Questo era il primo che Sì. sei arrivato. E niente, siamo andati a cercare un posto, una tenda, così, insieme tra gli amici che conosco del mio quartiere, più o meno, così anche. Quanti eravate nella tenda? Alla fine che i posti che abbiamo messo lì, loro hanno messo, mi sa, 8. 8 8 letti, letti. ma Brand, poi non. era. La tenda è abbastanza grande. No, brand, c'era il materasso e sotto c'era una La rete, rete. sì. Okay. Erano comodi i letti? Non abbastanza, non abbastanza, perché la rete è quella che, non lo so, se abbassa quando ti metti Scendeva su, troppo. sì, scende, non è così comoda. Ah, ecco, alla fine noi abbiamo preso quelli letti con la plastica, che quando sono nuovi non sono usati ancora, quindi abbiamo lasciato quella plastica per non far scendere la rete, che bloccava un po', quindi ecco, alla fine ci siamo organizzati. E abbiamo messo 12 posti nella tenda. 12. 12, sì. Abbiamo voluto stare insieme tra amici, quindi abbiamo messo La la tenda tenda. era fredda, calda, pulita. All'inizio sì, era pulita, ma dopo quando sono 12 di dentro, in campagna, alcuni giorni ti pioveva con il fango, tutto, quando entri e esci di qua di là, deve essere sporca per forza. Per pulirla tu non hai una scopa, non hai qualcosa per pulire. Loro non l'hanno fatto questo servizio. Loro, quelli che gestiscono. Poi c'era la distribuzione del cibo, dell'acqua, no? Sì. E quando siamo arrivati, questo ecco, era, non lo so, la mattina dopo ecco, ci siamo messi in fila per andare. Soltanto un punto per distribuire il cibo per non lo so quante migliaia di persone che hanno detto più o meno erano 3.000 qualcosa. E lì c'era già qualcuno che voleva. Era prepotente, voleva qualcosa in più rispetto agli altri. Sì, ma sicuramente sì, perché quando vedi questa fila, come ti avevo detto, non sono 100, non sono 500 alla fine, no, una lunghissima fila. Soltanto un posto per distribuire il cibo e anche per tanti che fumano e non ce l'hanno sigarette in quel momento che hanno saputo che ci sono i sigaretti da dare, quindi cercano di prendere quello che riescono a prendere. E da quel momento io ho capito tutto, che non riesco proprio a stare lì per andare avanti tutto. E quindi sì, tanti ragazzi hanno cercato di prendere tutto con la forza, E cosa tutto. facevano i poliziotti, i carabinieri in quel momento? Per la distribuzione in quel momento non c'erano Non poliziotti, c'erano, il non primo giorno non c'erano c'erano. carabinieri. Quando sono Fuori arrivati? sì. Per Fuori, dall'esterno c'erano, però per la distribuzione non la c'era nessuno. distribuzione no, E poi ci c'erano sono stati? soltanto tre, una signora e gli altri due Sempre maschi. con la Sì. giubba Sì. fluorescente, gialla fluorescente. Non c'era nessuno vestito di rosso. No, quelle si posso dire non è rosso, quel tipo arance, Ok, quello non è giallo, ecco, posso sì. dirlo. Erano diversi. E quando sono arrivati o non sono mai arrivati per la distribuzione del cibo carabinieri poliziotti? No, in quel momento è andata ormai quel pranzo proprio il primo giorno mi è andata. Quelli che erano nella prima fila hanno preso Nei quello giorni che successivi non. sono riusciti a prendere, dopo non è rimasto nulla per gli E altri. nei giorni successivi? Dopo quel giorno la cena, non mi ricordo che non ho mangiato, ma non volevo andare, ma non lo so com'è andata, proprio se hanno distribuito qualcosa o no, ma i prossimi giorni hanno cercato di organizzarla meglio, forse posso dire, c'erano due, una tenda grande dove distribuiscono Coperta, quindi. questi pasti, coperta, c'erano delle tavole anche se vuoi sederti lì a mangiare o vuoi tornare nella tenda, come vuoi tu, E da due parti, quindi c'erano due punti di distribuzione, posso dire, e nel frattempo hanno fatto un'altra tenda anche grandissima. Quindi E la questo è il stessa 2 cosa, aprile. non il 2 aprile, mi sa il 3 Il aprile, 3. hanno fatto questa cosa, sì. Avevi visto qualcun altro oltre queste persone, cioè i carabinieri, i poliziotti e le persone che erano vestite dalla tuta arancio, rosa e arancio giallo? Sì, Chi c'era? c'erano i poliziotti che erano lì all'ingresso della tenda per organizzare la fila, perché Sì, sicuramente alcuni cercavano di saltare i turni. oltre alla distribuzione nel campo vedevi qualche altro personaggio? C'eravate voi, giusto? Voi eravate gli Sì, ospiti che stavate nelle tende. gli Poi altri, c'erano i per esempio, per poliziotti. un punto di pronto soccorso. Ah. Una tenda così dedicata a quel servizio. Chi altro? Alcuni mediatori che Come erano mettevano vestiti? la stessa cosa come gli altri, questa cosa con colore arancio. Ma per me erano tutti uguali, non capivo in quel momento che è mediatore, che è quello che fa il medico, erano tutti uguali, tranne la tenda del pronto soccorso era Erano vestiti di chiara. bianco. Ah, erano proprio tutta la Bianco, ma tenda. anche una tenda che è messa con la croce La croce rossa, sì. Ok. rosso. E niente altro. Personale posso dire dopo, forse il 3 aprile, sì, hanno iniziato di parlare con i ragazzi che erano tipo mediatori, tipo interpreti che sono arrivati con la polizia della questura, che era un ufficio fuori il campo, che vanno a parlare lì per dare il nome, tutti ti chiedono vuoi stare qui, Tu vuoi. fino ad allora avevi il numero ancora? Il famoso 69 ancora ce l'avevi? Il numero l'ho cambiato il 3 aprile, E per te lo ricordi avere questi l'altro? passi, sì, 43, per cambiare questo. Tu te li ricordi, eh? No, non mi ricordo, perché anche sto cercando di scrivere questa mia memoria, sto provando di scrivere la mia memoria, quindi mi ricordo. Sono arrivato proprio al punto del campo di Manduria, cerco di sbrigare il Va presto bene, possibile. E quindi sì, il 3 aprile ho cambiato questo numero, ho dato quel tipo di carta su quale ho scritto il numero di Lampedusa, l'ho lasciato lì da una signora che parlava francese, quello sono riuscito a capire qualcosina in quel momento, e ho lasciato questo numero, ho preso un'altra carta scritta al 43, il mio numero, che quello serve per i passi, per tutto, devo mostrarlo ogni volta che devo prendere qualcosa da mangiare, o hanno detto qualcosa che ci serve per il bagno, shampoo, ma non ce l'hanno dato dopo. Niente, questo sì. Senti, Assen, facciamo una cosa allora. Sì,